Modem in Iowa, Siria, Idlib pronta a cadere, la rivoluzione siriana è durata 9 anni, ma con quali risultati? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Bashar al-Assad has been very emphatic in saying that he wants to regain control over the entire country. Given the skepticism out there around the electoral process, given the focus on Iowa, this is going to be a real problem for the Democrats. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. In squadra ci sono Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi che è in regia. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, per le domande e per i commenti sui due grandi temi che affronteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato, e inizieremo con quello, il pasticciaccio grosso dei democratici alle primarie in Iowa, i risultati definitivi ancora rimandati, pare, nella serata americana, quindi per noi insomma orari qui da venire. E poi l'altro grande tema, riaccendiamo i riflettori su Idlib. Fugacemente in questi giorni vi abbiamo dato notizie della offensiva da parte di Damasco su questa importante città siriana. È venuto il momento di fare il punto su un quadrante che è stato per un po' di tempo ignorato dalla maggior parte dei media. I commenti e le domande li potete fare naturalmente anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, lì trovate anche la diretta video di questa trasmissione, e poi su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account personale che è Giampaz. Detto ciò, 16:08, 30 secondi, misuriamo la temperatura. Il nostro termometro internazionale va a misurare la temperatura innanzitutto a Baghdad e dintorni, perché in Iraq vi sono stati anche quest'oggi scontri fra manifestanti iracheni, appunto antigovernativi, e gruppi sciiti, i seguaci del leader Muqtada al-Sadr. Si stima, e secondo fonti iracheni, vi sarebbero stati almeno 15 feriti. Ieri analoghi scontri in altre città del sud del paese e si era registrato anche un morto. Che cosa sta accadendo in particolare in questi ultimi giorni in Iraq? Spesso vi abbiamo dato conto, ma fin dall'inizio appunto di queste proteste antigovernative, i giovani sono scesi in piazza per la corruzione del governo, la mancanza di lavoro, di prospettive economiche in un paese ricchissimo di greggio ma che si campa con pochi dollari al mese. Il settarismo ancora una volta è entrato prepotentemente tra le fila dei manifestanti, con frizioni anche fra i vari gruppi appunto, e stiamo assistendo ad un esperimento tra i sostenitori dei partiti e delle milizie filo-iraniane e sostenute appunto da Teheran, tra cui i sadristi, e migliaia e migliaia di sciiti che invece protestano contro appunto il malgoverno iracheno, ma allo stesso tempo non vedono di buon grado l'avvicinamento, o meglio la pressione da parte iraniana nel paese. A riaccendere le proteste che cosa è stato? Vi abbiamo raccontato della crisi politica conseguente alle dimissioni anche del premier al-Mahdi, e a riaccendere le proteste, dicevo, è stata la nomina di Mohammed Tafiq Allawi come nuovo primo ministro. Sostanzialmente questa figura viene vista come ennesima espressione di questa elite che da anni guida il paese. E poi il sempre caldo dossier libico, arrivano un po' di notizie. La prima arriva da Ginevra: si è riunito nelle scorse ore il 5+5, il cosiddetto Consiglio Militare Congiunto, che vede sostanzialmente 5 membri delegati da parte di al-Sarraj, Tripoli, governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, e 5 nominati dal generale Haftar, il generale ribelle che bussa ormai da mesi alle porte di Tripoli. Secondo un comunicato ufficiale delle Nazioni Unite si sarebbe arrivati a un accordo e per un cessate il fuoco permanente. Naturalmente questa litania del cessate il fuoco e dell'embargo la sentiamo da settimane, staremo a vedere se il campo darà concretezza e realtà a questo che per il momento sembra ancora l'ennesimo proclama. Sempre lato libico, ma con anche un cotè importante italiano, avrete sentito che è in fase di rinnovamento il memorandum Italia-Libia, che prevede varie cose, tra cui un coordinamento e un aiuto da parte del governo italiano a tutta la questione migratoria, quindi guardacoste, addestramento dei militari di Tripoli per un controllo più efficace dei flussi migratori. Ebbene, c'è stato un incontro tra il ministro dell'interno libico e l'omologo italiano Lamorgese, ma è presente anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio. In buona sostanza, cosa è accaduto? Pare che l'Italia voglia emendare questo memorandum chiedendo maggiore rispetto per i diritti dei migranti. Come sapete, la situazione nel quelli che alcuni chiamano ancora centri per migranti, che sono in realtà prigioni a tutti gli effetti, è assolutamente insostenibile, complice anche la guerra. Dall'altra parte, quindi dicevo, da un lato l'Italia che chiede maggiore rispetto per i diritti umani, dall'altra parte però il ministro dell'interno libico ha in qualche modo battuto i pugni sul tavolo chiedendo una maggiore chiarezza politica, questo lo riporta l'ANSA, da parte del governo stesso. Si è ancora una volta in sostanza sottolineato come quella ambivalenza, quell'ambiguità, o se volete, come dire, neutralità, mettiamola così, del governo italiano verso Serraj e Haftar abbia indispettito e non poco il governo di Tripoli. Queste le prime due questioni, e poi però, Valeria Bernardi, c'è un terzo punto che è quello che ci preme di più. E il terzo punto ha a che fare con il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia del petrolio, non solo. Bengasi ha 9 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 2 giorni di gasolio, 8 giorni di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, gasolio e GPL. Anche Seba non ha capacità di stoccaggio di benzina e GPL e ha soli 6 giorni per il gasolio. Secondo fonti anonime ascoltate dal sito Bloomberg, la produzione di petrolio attuale sarebbe di 204.000 barili al giorno, ma le informazioni in questione non sono state ufficializzate. Recentemente il presidente della National Oil Corporation, Mustafa Sanalla, ha detto che la produzione di petrolio potrebbe scendere a 72.000 barili al giorno. Finora le perdite, dovute alla chiusura dei porti, sarebbero di 562 milioni di dollari. In passato la produzione giornaliera di petrolio ha toccato un minimo storico, erano 45.000 barili, ma era l'agosto del 2011, durante la crisi che ha portato alla fine del regime di Gheddafi. Valeria Bernardi si è divertita quest'oggi, le sonorità a cura della nostra regista, sembrava quasi un incipit classico, stava ammorbidendo i nostri cuori e le nostre tensioni, e poi subito ci ha richiamati all'ordine, all'attenzione, e che è quello che faccio anche con voi cari ascoltatori, perché la storia che raccontiamo adesso l'abbiamo definita il pasticciaccio grosso. Che cosa è accaduto ieri in Iowa, per le primarie dei democratici? Già un po' di messaggi al 349-238-6666. Si doveva in qualche modo nominare, lo sapete che in Iowa le primarie dei democratici in qualche modo celebrano e nominano quello che nella maggior parte dei casi è andato poi a sfidare il contendente repubblicano. Beh, in sostanza si sono dichiarati tutti vincitori ieri, ascolteremo tra pochissimo le voci, ma nella realtà è accaduto che la app che avrebbe dovuto gestire elettronicamente in maniera molto fluida e molto facile le preferenze, sapete che in Iowa ancora le primarie dei democratici si svolgono in maniera molto fisica, lo abbiamo raccontato ieri, con il raggiungimento dei 15% di preferenze e con uno spostamento all'interno delle camere, può essere un conservatorio, può essere una classe di una scuola, può essere addirittura una moschea, è accaduto per la prima volta in quest'anno. Beh, sostanzialmente gli elettori si spostano da una parte o dall'altra per andare a significare la loro preferenza verso i candidati. Ecco, l'app doveva dare una mano a tutto ciò, l'app non ha funzionato, per cui manualmente stanno conteggiando tutti i voti per avere una versione realmente definitiva. Da quello che abbiamo sentito e che abbiamo letto, e le fonti ci dicono che Bernie Sanders dovrebbe essere in vantaggio. Fra l'altro poi, come dire, i dietrologi politici potranno argomentare e divertirsi su una notazione che adesso vi do, perché la app che, come dire, ha fatto fare flop ai Dem in Iowa era stata pagata, secondo un'agenzia, $63,000. La società che l'aveva prodotta si chiama Shadow. È interessante perché dietro Shadow ci sarebbero due spin doctor, due analisti e esperti di campagna elettorale che avevano lavorato, indovinate per chi? Per la campagna di Hillary Clinton nel 2016. Evidentemente non era andata proprio benissimo. Allora partiamo dai proclami di soddisfazione. Il primo, quello di Bernie Sanders. Let me begin by stating that I imagine have a strong feeling that at some point the results will be announced. And when those results are announced, I have a good feeling we're going to be doing very very well here in Iowa. Insomma, Bernie Sanders dice quando e se, no, se non l'ha detto, quando ci saranno i risultati, ho la sensazione che saranno ottimi risultati. Sentite invece come replica anche l'altro, uno degli altri candidati, Buttigieg. So we don't know all the results, but we know by the time it's all said and done, Iowa, you have shocked the nation, because by all indications we are going on to New Hampshire victorious. E insomma, l'altro candidato democratico, anche lui deve camminare un po' sulle uova, no? Non ci sono ancora i risultati, ma il grande ruolo, i grandi protagonisti siete stati voi, si rivolgeva così agli elettori democratici dell'Iowa e già proiettandosi verso il New Hampshire. Peraltro quasi tutti i candidati democratici sono già volati verso il prossimo appuntamento. Proviamo a fare il punto su ciò che è accaduto e cosa potrebbe accadere adesso. Lo facciamo con Mario Del Pero, insegna storia della politica estera statunitense a Sciences Po a Parigi. Professor Del Pero, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno a lei. Allora, la prima domanda è molto facile. È Bernie Sanders apparentemente in testa? Sarà lui l'uomo che sfiderà Trump? È una domanda difficilissima in realtà. Era ironico. Le indicazioni che abbiamo, che sono indicazioni che hanno una qualche fondatezza, perché appunto è un voto palese, è un voto fisico, la gente che si sposta nelle sedi di questi caucus, ecco, queste indicazioni che abbiamo è che Buttigieg e Sanders sarebbero andati particolarmente bene e al contrario Biden invece sarebbe andato maluccio. Quindi questo è un po' il quadro molto vago e nebuloso che abbiamo in questo momento. Se questo quadro fosse confermato, beh, avremmo due aspetti interessanti. Il primo è che chiaramente Sanders diventerebbe il favorito, anche perché sia Buttigieg che Sanders, come dire, combattono una lotta per egemonizzare un pezzo di elettorato, e l'elettorato radicale di sinistra nel caso di Sanders, quello più moderato e libero nel caso di Buttigieg. Quindi prima indicazione, Sanders diventa favorito. Seconda indicazione, Biden parte ad handicap, e se questo handicap si amplifica, ecco che Buttigieg, il giovane ex sindaco di South Bend, Indiana, potrebbe andare a occupare quello spazio lì, perché la corsa sarà una corsa destinata a farsi una corsa a due tra due aree politico ed elettorali, diciamo così. Quindi in questa prima fase la sfida è per conquistare, catturare, egemonizzare quest'area politico elettorale, la sinistra da una parte, il centro dall'altra, per semplificare, anche certo, un po' più complesso. Certo. La voce che sentite è quella di Mario Del Pero, insegna storia della politica estera statunitense Sciences Po, la prestigiosa università parigina. Ho guardato un po' di video di ieri, quelli che ci ha consegnato la lunga giornata in Iowa. Devo dire che Buttigieg è sembrato particolarmente a suo agio sul palco, spavaldo, sicuro di sé, quasi istrionico, ha fatto battute. Come lo vede? Potrebbe essere l'outsider, il coniglio dal cilindro dei democratici? Guarda, io rivendico un piccolo primato, perché se Buttigieg è sindaco di South Bend, un editoriale già un paio d'anni fa, una figura estremamente interessante, con un curriculum tutto particolare, tra gli altri è figlio del traduttore dei quaderni di Gramsci in inglese negli Stati Uniti per Columbia UP. È un giovane politico estremamente articolato, estremamente sofisticato, in una certa misura obamiano, per riuscire ad essere al tempo stesso sofisticato, articolato e molto comunicativo, e però ha delle evidenti fragilità e debolezze. La prima è l'esperienza, il curriculum politico elettorale è limitato a una pesantissima sconfitta in Indiana e poi all'elezione a sindaco di una cittadina universitaria, che se Notre Dame lì conta fino a un certo punto. e per il momento ha un grossissimo problema, ce lo mostrano tutte le rilevazioni, con l'elettorato afroamericano che non ha alcuna importanza in Iowa, ne ha poca in New Hampshire, ma quando il voto comincia a spostarsi a partire dalla South Carolina e poi nel super martedì di inizio marzo diventerà una componente cruciale dell'elettorato. Ecco, se Buttigieg non riesce a catturare quel voto lì, la sua corsa è destinata ad arenarsi, e lui porta, diciamo così, con sé e lo danneggia delle tensioni avute quando è stato sindaco di South Bend con la comunità afroamericana della città per vicende legate, diciamo così, al licenziamento del capo della polizia nero, sì. Tutta una serie di polemiche che ne sono conseguite, e questa è una sua evidente debolezza oggi a fronte, dicevo, di una sofisticatezza, di una capacità comunicativa che lo rende davvero interessante come, sì, candidato. Lei giustamente ricordava la sua abilità sul palco, lo si vede sul palco, lo si vede nei dibattiti, lo si vede nelle interviste. Sì, senza dubbio, lo confesso, sono stato sedotto in parte da questa abilità. Giovane politico, sottolineava molto bene Mario Del Piero, una mancanza di curriculum, una certa inesperienza dovuta evidentemente a una carriera diversa da quella di Bernie Sanders e altri, però evidentemente intanto si affaccia sul lagone, probabilmente si farà le ossa, se non in questa tornata magari i democratici possono contare su un rinnovamento. Attenzione, 349-238-6666, dovessi riassumere in un hashtag, forse è un po' quello che campeggia in alcuni dei messaggi degli ascoltatori: se Sanders fosse lo sfidante democratico per le elezioni americane, beh, sarebbe già di per sé un grosso segnale di cambiamento al di là dell'età del candidato, così scrive un ascoltatore. E Bloomberg, replica un altro, Bloomberg ha deciso di non partecipare alle primarie dei Dem in Iowa, ha deciso piuttosto di spendere milioni e milioni di dollari per lo spot, quello mandato in onda durante la pausa pubblicitaria del Super Bowl, il principale evento sportivo televisivo mondiale, milioni e milioni di euro, di dollari, perdonatemi, di investimento. Probabilmente ha preferito aspettare un attimo e vedere come evolvono i primi passi delle primarie Dem. Mario Del Piero, da Sciences Po Parigi, osservatore delle vicende americane, autore di parecchi saggi proprio sulla politica statunitense. L'ultima domanda è forse a questo punto più difficile o più facile, mi dica lei, perché la prima sembrava facile. Ma questa app che si impalla, questo continuare a posticipare i risultati, è un po' un pasticcio? Non stanno facendo un ennesimo regalo i democratici a un Donald Trump che nella notte ha twittato, ha detto, adesso daranno la colpa ai russi per questo scivolone informatico, insomma? Sì, è indubbiamente un pasticcio, è indubbiamente una brutta figura che un po' riflette una fragilità della democrazia più vecchia e per certi aspetti obsoleta del mondo, che è la democrazia statunitense, che nei suoi meccanismi elettorali preserva, diciamo così, forme anacronistiche, perché i caucus dell'Iowa sono un anacronismo, il voto è palese, i negoziati tra un turno e l'altro per convincere i sostenitori di chi ha preso meno del 15% a spostare il loro consenso. Ed è chiaro poi che in realtà non è tanto l'app, mi pare di capire, che abbia fallito, ma chi doveva inserire i dati nell'app e l'ha fatto in maniera pasticciata, anche perché le modalità di un caucus, quello dell'Iowa, diventano davvero quasi ingestibili laddove, come mi farsi capire, è stato ieri, vi è un'alta partecipazione, quindi vi è una presenza numerosa di persone fisiche, di spazi ristretti che si spostano di qua e di là, la gente deve contarle, inserire i dati nell'app, ed è venuto fuori questo pasticcio, tant'è che oramai i caucus sono destinati a scomparire. Io mi auguro che scompaiano, hanno un che, diciamo così, di folcloristico, sì, di legato, sì, alla tradizione, sì. Però è un voto che non ha nessun senso, a maggior ragione caucus dell'Iowa, che così tanto importanza hanno nell'indirizzare la campagna delle primarie di un partito e di quello democratico in particolare. Certo. Dal 1992 in poi chi ha vinto l'Iowa ha poi ottenuto la nomination. Sì. Professor Del Piero, come la sensazione che queste primarie dell'Iowa, così anacronistiche, quasi un'operazione di modernariato politico, piacciono più a noi giornalisti che proviamo a raccontarle che ai politici stessi, e vedremo poi se gli esiti saranno nefasti per i Dem, come alcuni ascoltatori stanno scrivendo al 349-238-6666. Grazie mille, professor Mario Del Piero, per essere stato con noi. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima. Buona giornata e buon lavoro a voi. Grazie. È venuto il momento di cambiare pagina. Vi dicevo, iniziamo un lungo approfondimento su quello che è il bilancio di 9 anni di prima manifestazioni, poi rivoluzione, poi guerra civile siriana, complice l'accerchiamento di Idlib, importante strategica città nel nord della Siria, le forze di Damasco con il supporto dell'aviazione russa, ma anche il supporto negli anni delle milizie sciite di Hezbollah che arrivavano dal Libano. Si è il regime di Assad ha riconquistato gran parte della Siria e in qualche modo la presa di Idlib, che dovrebbe avvenire secondo le dichiarazioni da parte di Damasco nel giro di poche settimane, costituisce forse l'ultimo capitolo di una lunga e sanguinosissima storia che proveremo a ricapitolare. Ma come sempre facciamo, la prima cosa, mettiamo lo zoom nella nostra macchina fotografica, o meglio facciamo così: prendiamo lo zaino in spalla, facciamo un po' di chilometri, andiamo nella regione di Idlib e lo facciamo con la voce di un giornalista freelance siriano, Mohamed Hassan, che pochissimi minuti fa ci ha raccontato dove si trova e che cosa sta vedendo. Sentite. Al momento mi trovo a Tiltamir, è un villaggio controllato dalle forze democratiche siriane nel nord-est della Siria. Ci sono delle forze americane che stanno tagliando la strada alle pattuglie russe. Sono in contatto costante con degli amici che si trovano nella provincia di Idlib. Le forze del regime siriano, sostenute da truppe russe, sono entrate nella città di Sarakib, da ovest, e da quello che sappiamo tutti i civili hanno lasciato la città, molti diretti verso la città di Idlib e verso il confine con la Turchia. In questo momento, al confine tra Siria e Turchia, ci sono centinaia di migliaia di persone, mentre molti altri civili sono nella città di Mamji, nel nord della Siria. Sappiamo che questa città è controllata dalle forze democratiche siriane e che mantiene contatti con migliaia di persone in fuga da Sarakib e dai dintorni. Tutte queste persone si stanno spostando verso Mamji, perché il comandante generale delle forze democratiche siriane, Mazlum Kobani Abdi, ha dichiarato di essere disposto ad accogliere i civili in fuga da Idlib. Secondo le informazioni in mio possesso, hanno aperto un campo a Mamji e uno a Raqqa per accogliere questi profughi, che sono scortati da sparute truppe delle forze democratiche siriane. Inoltre, molti altri civili, da Sarakib, si stanno dirigendo verso Afrin, una città curda colpita dai raid turchi e occupata da milizie filoturche. Nelle parole del giornalista, il collega freelance siriano Mohamed Hassan, che sta lavorando nella zona di Idlib, va e viene, in questo momento non è esattamente sicuro lavorare lì, non è per niente facile, complice anche quei colpi di fuoco che hanno visto contrapposti proprio le forze governative siriane con i turchi proprio ieri. Vi sono stati 8 morti da parte turca, una reazione violenta secondo le dichiarazioni di Erdogan, avrebbero fatto decine e decine di morti tra i soldati siriani. In realtà Damasco dice assolutamente no, non vi è stato questo numero altissimo di morti, ma la guerra, si sa, è fatta anche di propaganda, di numeri, di cifre e di soldati caduti. Ma tutto questo per dirvi che Idlib è veramente in questo momento il punto di volta, il punto di svolta dell'ultimo capitolo, dell'epilogo forse del lungo conflitto siriano. Con quali conseguenze proveremo a analizzarle tra pochissimo. Di sicuro c'è una conseguenza: i civili in fuga sono tantissimi, qualche fonte sussurra addirittura 1 milione, almeno sarebbero 400.000. La Turchia non vuole accoglierne altri. Insomma, che cosa sta accadendo? Soltanto un giornalista sul terreno ce lo può raccontare. Vi faccio ancora sentire la voce di Mohamed Hassan. Le Nazioni Unite e James Jeffrey, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Siria, parlano di circa 700.000 persone arrivate al confine tra Siria e Turchia da dicembre ad oggi. Secondo le informazioni che ho, una certa quota tra queste persone è riuscita a fuggire a Berlino grazie a un accordo con la Turchia. Al momento, però, le forze turche non aprono il confine ai profughi provenienti da Idlib e dalla sua provincia. Inoltre, ho qualche informazione da fonti vicine al regime siriano. Queste persone mi dicono che il regime controlla 4 o 5 tra le strade principali, quindi riuscirà a prendere il controllo della città di Idlib nelle prossime settimane. Mi risulta che qualche ONG locale stia aiutando queste persone e stia distribuendo tende e generi alimentari nei campi al confine turco-siriano. Ma dobbiamo anche ricordare che è inverno e anche in Siria in questo momento fa freddo. E quindi in molti di questi campi la situazione è pessima, specialmente per i bambini. Il governo turco, finora, non ha manifestato intenzione di aprire le frontiere. Direttamente dalla zona del conflitto in Siria, la regione di Idlib è ormai l'ultima sacca di resistenza di un coacervo di gruppi ribelli, tra cui anche milizie islamiste che ormai si sono rifugiate lì. Sigle ormai che non sentivamo da tempo, Jabhat al-Nusra, altre milizie affiliate al Qaeda e ciò che resta dello Stato Islamico. Insomma, è davvero la battaglia definitiva? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere, non prima di aver sentito come stanno andando le borse, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Oggi a Nessun Luogo Lontano, dopo aver fatto il punto sul pasticciaccio Dem, ci siamo spostati in Siria, perché negli ultimi giorni si è fatta più pesante l'offensiva da parte di Damasco con il sostegno dell'aviazione russa sulla regione di Idlib. Ultima sacca di resistenza, in mezzo c'è un po' di tutto, da semplici cittadini a miliziani a anche componenti di formazione islamista. Insomma, è come se fosse un concentrato degli ultimi 9 anni di guerra civile siriana che è lì a provare a resistere. Però poi è accaduto un'altra cosa, l'intervento turco e quella scaramuccia, diciamo così, che è costata la vita a soldati da una parte e dall'altra e che sta creando una certa tensione in un triangolo che potremmo individuare passando da Ankara, poi Damasco e poi Mosca. Mosca in qualche modo deve fare il garante tra i siriani di Bashar al-Assad e i turchi di Erdogan. Visto l'ultimo scontro, pare che la missione di Putin possa essere davvero davvero difficile. Ma torniamo lì, torniamo sul terreno, perché come avete sentito dalla voce di Mohamed Hassan, pare che Idlib sia destinata a cadere nel giro di poche settimane. E dopo? Da quello che sappiamo, la Turchia negli ultimi giorni ha inviato molte armi e molti veicoli nella zona. Si parla di oltre 70 carri armati, ad esempio. Penso che se alla fine Idlib sarà conquistata dall'esercito regolare siriano, non tutti i civili che vivono lì lasceranno la città. Sappiamo che da 7 anni Idlib è controllata da varie fazioni dell'opposizione, che vanno da Jamaat Ansar al-Furqan fino a Jabhat al-Nusra, ma penso che la maggior parte dei civili protesterà al confine turco finché la Turchia non riaprirà i confini e queste persone finiranno nelle regioni curde. Quindi questo è il momento in cui le nazioni europee devono prendere una decisione sulla situazione nella zona. Il grande problema adesso è quello dei civili e sappiamo che gran parte della comunità internazionale teme Idlib perché la ritiene controllata principalmente da Jabhat al-Nusra. Intanto, in queste ore, l'esercito regolare siriano sta continuando a bombardare Idlib e i dintorni. Secondo me l'ingresso delle forze del regime siriano è davvero questione di giorni. Penso anche che il presidente turco Erdogan abbia stretto un accordo con il governo russo. Per entrambi, lì può succedere qualsiasi cosa. A loro non interessa. Penso che il grande problema, visto che russi e turchi si stanno affrontando anche in Libia, sarà che Erdogan lascerà Idlib al regime siriano, dettando qualche condizione. Forse molto presto vedremo il regime siriano e le forze turche combattere uniti contro i curdi nel nord-est della Siria. Questo è il racconto dal terreno di Mohamed Hassan, giornalista freelance dal nord della Siria. Adesso però vi propongo una cosa, di fare una piccola pausa e cercare di ricapitolare quello che è accaduto in 9 anni di guerra civile siriana condensati in più o meno 90 secondi. Nella primavera del 2011 i cittadini scendono in piazza contro il regime. Le forze di sicurezza rispondono con una repressione violenta, innescando insurrezioni che si espandono velocemente in tutto il paese. Nel novembre 2012 si forma una coalizione nazionale che riunisce le diverse anime rivoluzionarie con l'esclusione dei gruppi islamisti. Le proteste diventano una guerra civile che vede contrapposti l'esercito regolare e il Free Syrian Army. Successivamente, agli scontri si uniscono gruppi islamisti organizzati, alcuni sotto la bandiera dello Stato Islamico, ingaggiando feroci scontri con le forze curde nella regione di Kobane. Nel settembre 2015 la Russia entra nel conflitto a fianco di Assad e contro l'ISIS. Nell'agosto dello stesso anno anche la Turchia decide di entrare in Siria. L'esercito filo Assad intanto riconquista terreno grazie all'appoggio dell'aviazione russa e delle milizie sciite finanziate dall'Iran, riconquistando Aleppo. Gli Stati Uniti cercano di arginare lo strapotere russo nella regione attaccando nella primavera del 2017 basi dell'aviazione governativa e armando le forze curde. Alla fine del 2017 lo Stato Islamico viene cacciato da Raqqa. Pochi mesi dopo, la Turchia muove contro le postazioni curde ad Afrin. Nell'estate del 2018 Assad riprende possesso di tutto il sud del paese, mentre nel nord i curdi continuano a lottare contro l'ISIS. In ottobre gli Stati Uniti ritirano le proprie truppe dalle zone in mano ai ribelli, facendo da apripista alla repressione turca ai danni dei curdi. Intanto Idlib diventa rifugio per diversi gruppi di ribelli. Un'operazione militare statunitense uccide nella stessa zona al-Baghdadi nell'ottobre del 2019, mentre le truppe di Damasco avanzano da sud. Questo in sintesi, quello che è accaduto negli ultimi 9 anni. La situazione è estremamente complessa, gli attori sono tantissimi, proviamo a fare il punto e soprattutto a sfregare la sfera di cristallo per capire cosa può accadere adesso. Lo facciamo con Lorenzo Trambetta, corrispondente ANSA da Beirut. Lorenzo, buongiorno, ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Lorenzo, ti propongo di ascoltare un punto di vista abbastanza schierato, per così dire, perché abbiamo raggiunto un analista del think tank turco Edam che si chiama Emre Kaya, al quale abbiamo fatto una domanda che ti sottoporrò subito dopo. La caduta di Idlib potrebbe mettere fine al conflitto siriano? Sentiamo insieme. Not really. It will be an important chapter. No, non penso. Sarà un importante capitolo della guerra civile siriana, perché tutti i gruppi che combattono a Idlib sono indipendenti, ciascuno lavora per sé. La caduta di Idlib segnerà la chiusura di un capitolo importante della guerra civile siriana, ma non credo che sarà la fine del conflitto. Fino a questo momento il regime di Damasco non ha attaccato o non ha lanciato offensive contro i territori controllati dalla Turchia nel nord della Siria. Se non lo ha ancora fatto, non è perché non vogliano farlo, ma perché hanno concentrato le loro forze attorno a Idlib. Quando questo problema sarà risolto, è molto probabile che il regime di Damasco dirigerà i suoi sforzi verso i territori controllati dalla Turchia. E allora vedremo un vero conflitto tra Ankara e Damasco. Quindi la battaglia di Idlib non segnerà la fine della guerra civile, ma solo un passo in più verso ulteriori scontri nel nord del paese. L'analisi di Emre Kaya, analista appunto del think tank turco Edam. Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA da Beirut, sei d'accordo con l'analisi? Alla fine la presa di Idlib potrebbe essere l'ennesimo capitolo di una sanguinosa storia che però dovrà continuare. Ma messa così direi di sì. Dobbiamo forse distinguere da Idlib come regione, che in parte è già stata riconquistata, anche in queste ore le forze governative e quelle russe avanzano, e una zona invece più montagnosa che probabilmente sarà l'ultima roccaforte di miliziani non affatto indipendenti. Qui sono in disaccordo con l'analista che vi parlava della Turchia. Sì. Miliziani che sono sempre più cooptati da Ankara e comunque sostenuti direttamente dalla Turchia. La Turchia sta già mandando dei rinforzi e anche sta rafforzando delle sue basi e torri di osservazione militari dentro la regione di Idlib. In qualche modo si sta arroccando in quella che sarà probabilmente una delle altre cosiddette fasce di sicurezza, e uso una narrativa, un punto di vista turco, sì, la Turchia sta costruendo da Aleppo anche nell'est a danno delle forze curde e nel nord-ovest siriano tutta una fascia di sicurezza, come dicono i turchi, profonda circa 40 chilometri. Questo è un accordo sia con Damasco, soprattutto con i russi che sono alleati di Damasco e che mediano tra la Russia e il governo siriano. Tra la Turchia e il governo siriano. Sì. Lorenzo, tu hai seguito fin dall'inizio del 2011 la cosiddetta primavera araba. Cosa, dopo 9 anni, prima manifestazioni, poi la repressione, rivoluzione, guerra civile, cosa ci consegna questa esperienza siriana fino a questo momento? Beh, innanzitutto seguivo anche, diciamo, i moti di protesta prima del 2011. Sì. Diciamo, per questo lo dico perché la nostra lente è cronologica, la dobbiamo allargare e considerare il 2011 come una tappa sicuramente importante, ma che si proietta in un periodo un po' più lungo dell'attualità. Quindi oggi ovviamente a guardarla siamo tutti pronti a dire: ecco, da una primavera si è passato a un inverno, l'ISIS e il radicalismo sono il risultato di chi in qualche modo osa alzare la testa contro i poteri autoritari nella regione. È una domanda che dovremmo fare tra 15-20 anni, capisco che magari gli ascoltatori non avranno la pazienza, ma questi sono movimenti lunghi della storia, quindi le proteste che anche oggi vediamo in Iraq, nel vicino Iraq, in Libano, sono parte di un movimento di contestazione giovane, non esclusivamente confessionale, che sta provando in vari modi, e lo ha fatto anche nel 2010-2011, a dire no ai poteri autoritari e anche sì ai diritti di cittadinanza, ai diritti di avere delle prospettive socio-economiche di lungo termine. Sì. Tutto questo poi ovviamente ha dei corsi e ricorsi della storia, dobbiamo essere pazienti anche a dare a queste generazioni il sostegno e non invece a sostenere chi reprime in nome di una stabilità presunta. Sì, l'invito di Lorenzo Trombetta è aspettare un attimo a mettersi gli occhiali dello storico, stare con quelli dell'analista, del presente, del giornalista, quello che fa per l'ANSA da Beirut continuando a seguire la Siria. Ho un'ultima domanda per te, Lorenzo, però ti proporrei, andiamo a sentire come sta andando la situazione sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, lunga pagina di Nessun Luogo e Lontano dedicata alla presa che sembra imminente di Idlib, l'offensiva di Damasco. Ce la sta raccontando anche Lorenzo Trombetta in diretta da Beirut, corrispondente dell'ANSA che da tanto segue le vicende siriane. Lorenzo, quanto sta uscendo rafforzato Bashar al-Assad da questa ripresa graduale però sempre più consistente del territorio in suo possesso e quanto invece resta schiavo dell'aiuto russo, secondo te? Ma appunto, da un punto di vista mediatico della legittimità apparente, sicuramente è molto rafforzato. Sappiamo però che in questi ultimi anni, da quando la Russia è intervenuta militarmente in Siria nell'ottobre del 2015, gradualmente il potere, diciamo, duro, ma anche il soft power di Mosca è penetrato in quasi tutti gli angoli del potere del sistema politico, amministrativo, di sicurezza militare della Siria governativa. Bashar esce molto indebolito e uscirà nel corso degli anni molto indebolito da un punto di vista di tenuta del potere interno se la Russia dovesse in qualche modo fargli mancare il suo sostegno. Ricordiamolo, nel 2021 ci saranno le elezioni presidenziali e c'è chi già a Mosca comincia a pensare forse che Assad non sarà più il cavallo di Mosca. Io non sono d'accordo, credo che la Russia continuerà a sostenerlo, anche perché di Bashar al-Assad così non se ne trovano in giro facilmente. Non do un giudizio, diciamo, di merito, ma da un punto di vista politico. Russo. Però ecco, effettivamente, al di là della riconquista, che poi non credo sia imminente di Idlib, ma comunque che è una riconquista che va avanti, Assad apparentemente esce rafforzato, ma nel lungo termine è profondamente indebolito. Grazie mille Lorenzo Trombetta, il corrispondente dell'ANSA da Beirut. Buona giornata e buon lavoro, Lorenzo. Anche a voi buon lavoro. Fra poco vi faccio sentire ancora la voce di Emre Kaya, analista turco del think tank Edam. Fatemi rispondere però un po' di sms e whatsapp arrivati al 349-238-6666, ma perché ce l'hanno tutti con i curdi. Sono stato Erbil nel 2011, in epoca pre-ISIS, ho trovato gente estremamente in gamba e civile, mi viene e continua a venirmi in mente, ho chiesto aiuto a Antonio Talia perché non mi ricordavo la citazione esatta, la posso fare adesso. Quello che ha scritto un giornalista e saggista britannico, che è Christopher Hitchens, sembra quasi che in Medio Oriente viga una regola: tutti si sentono autorizzati a tradire i curdi almeno una volta. Noi occidentali abbiamo soffiato sul fuoco siriano per spezzare l'arco sciita Iran-Hezbollah creato dalla caduta di Saddam, altro nostro errore. Ora lasciamo il paese nel caos. Terzo errore o fine della serie, così ironicamente e anche amaramente ci scrive un ascoltatore. Buongiorno, un altro, ditemi un solo paese dove c'è stata una delle rivoluzioni arabe e si sta meglio di prima, così Vito. Però, gentile Vito, ha ragione, ma credo che abbia anche ragione da vendere Lorenzo Trombetta quando dice che le rivoluzioni devono dispiegare i loro effetti nel giro di anni. Questo è evidente, sono dei traumi dal punto di vista proprio della storia, della ricomposizione delle società, delle economie, i profughi, i morti. È evidente che nel giro di pochi anni non si può avere un risultato consolidato e cristallizzato. A onor del vero, il paese che ha innescato il tutto, e parlo delle primavere arabe del 2011 in senso più stretto, in Tunisia si è avviato un laboratorio democratico e anche parecchio interessante. Certo, se andiamo a vedere Libia, andiamo a vedere Egitto e Siria, c'è un po' da mettersi le mani nei capelli. Su quello ha ragione. Allora, vi faccio sentire, come promesso, la voce ancora di Emre Kaya, analista del think tank Edam, perché un po' di ascoltatori, pochi in verità, e forse un paio, hanno scritti, ma insomma chi se ne frega di ciò che sta accadendo in Siria. Ecco, un impatto potrebbe averlo anche l'Europa, quindi forse conviene che ce ne freghiamo un pochino di più. Sentite la voce di Emre Kaya. Questa questione va approcciata da due punti di vista. Dalla prospettiva turca, i rifugiati che potrebbero arrivare da Idlib e dirigersi verso la Turchia sono molto diversi da quelli che già sono presenti nel paese. Questi ultimi vengono soprattutto dalle regioni di confine, come quella di Idlib, Afrin, Jarabulus, Aleppo. Culturalmente queste aree sono molto simili alle regioni del sud della Turchia. Nonostante le differenze, l'integrazione di questi rifugiati non è stata così difficile. Certo, il costo economico è stato alto e non sono mancati i problemi, ma non è stato difficile accogliere questi rifugiati. La popolazione che si trova attualmente a Idlib, invece, proviene soprattutto da altre regioni della Siria, soprattutto dal sud. Fin dall'inizio tutto questo faceva parte di un piano del regime di Assad per trasferire tutti i miliziani e gli estremisti dalle altre regioni della Siria verso Idlib. Inoltre, dal punto di vista economico, la Turchia non può farsi carico di queste persone. Ci sono centinaia di migliaia di persone che si trovano al confine e vogliono entrare in Turchia. Certo, c'è un muro, ma non riuscirà a fermarli. Secondo le ultime cifre, ci sono circa 600.000 persone in attesa. Continua il conflitto. L'Europa, la comunità internazionale, non è riuscita a sporcarsi le mani, lo dico in senso buono, sul dossier siriano. Maldestri tentativi da parte dell'Occidente, la spregiudicatezza da parte di Mosca, come al solito, la raccontiamo spesso. Il risultato è una gigantesca massa di rifugiati che preme sulla Turchia e molto probabilmente arriverà in Turchia. E secondo voi, cari ascoltatori, la Turchia non chiederà qualcosina all'Europa? Sentite ancora l'analista turco. Il secondo aspetto è legato all'Europa, perché una maggiore pressione sulla Turchia significa in qualche modo maggiore pressione sull'Europa. La Turchia avrà bisogno e chiederà aiuto all'Europa, ai suoi alleati europei su questa questione, perché la Turchia semplicemente non può gestire una nuova ondata di rifugiati che come meta finale desiderano raggiungere l'Europa. Quindi Idlib non è una questione che riguarda solo la Turchia, è una questione europea. E questa può essere un'opportunità per una maggiore cooperazione con la Turchia e per farle distogliere lo sguardo da Mosca, per avviare una cooperazione su Idlib e in futuro forse anche su altri temi. Di sicuro l'Europa ha un ruolo da giocare in questa partita. Il punto di vista e l'analisi di Emre Kaya, analista di Edam, è un think tank turco piuttosto vicino all'ambiente governativo, e da ciò si spiega anche l'ultima risposta. Ma è evidente che un'enorme e nuova, rinnovata massa di rifugiati possa divenire l'ennesima formidabile arma di ricatto da parte di Ankara verso l'Unione Europea. Spesso abbiamo ribadito quei 6 miliardi di euro chiesti all'Unione Europea, quasi del tutto concessi per gestire i flussi migratori. E adesso? Beh, adesso ci potrebbe essere, come dire, un'altra crisi umanitaria da gestire e da risolvere, quindi altri soldi da chiedere all'Unione Europea. Siamo quasi in chiusura. Rispondo velocissimamente: non sarà che la Tunisia si è salvata a Primavera Araba, perché era quella col peso strategico minore, c'erano meno giocatori con fish sul tavolo. Forse è vero, è anche vero che il regime di Ben Ali era bello pesante, e anche vero che la Tunisia ci ha consegnato una quantità di jihadisti enorme, come peso specifico forse tra i più alti di tutto il Nord Africa. Insomma, c'erano dinamiche belle e pesanti, ma ripeto, soltanto gli anni ci daranno risposta in questo senso. Mentre tra tipo un secondo Valeria Bernardi, eccola lì, mi dà l'ordine, che vuol dire lanciare i titoli di coda, ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16:30. Un saluto intanto da Gianpaolo Musumeci.